L'affare Meucci, insomma, è un caso internazionale che rimbalza da Cuba a Washington, da Firenze a New York. Tutti mobilitati per riconoscere, come dice espressamente la risoluzione del Congresso degli Stati Uniti del 2002, che la vita e le opere di Meucci sono state fondamentali per la scoperta del telefono. Ma c'è qualcuno che ancora non la pensa così, sono gli eredi di Alexander Bell, il grande rivale di Antonio Meucci. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con la storia dell'invenzione del telefono. E sulla paternità di questa grande scoperta che ha rivoluzionato il mondo si scatena una battaglia legale e politica. Siamo in America e la contrapposizione tra gli eredi di Bell e la lobby pro-Meucci arriva fin dentro le stanze del Congresso degli Stati Uniti. Sentiamo il nipote di Bell contro Vito Fossella, deputato repubblicano del Congresso degli Stati Uniti. Siamo furiosi per la risoluzione del Congresso. Ci sono un'enormità di inesattezze. Abbiamo scritto il testo della risoluzione, l'abbiamo presentata al Congresso ed è stata approvata a maggioranza. Il mestiere dei politici è quello di accattivarsi gli elettori e la comunità italo-americana in questo paese è molto estesa. La domanda era se questa risoluzione mi farà avere più voti. Non era questo lo scopo, ma se capita va benissimo. Il Congresso non può riscrivere la storia. L'unico vero motivo che ci ha spinto a farlo è stato l'onore e la volontà di riconoscere che Meucci ha dato un contributo. I meriti e i profitti di questa rivoluzionaria invenzione sono sempre stati attribuiti unicamente a Bell e di conseguenza alla Bell Telephone Company. L'11 giugno del 2002 il Congresso americano approva definitivamente la risoluzione che dichiara Antonio Meucci come unico inventore del telefono, ma ormai è troppo tardi, come afferma Dominique Massaro dalla Corte Suprema dello Stato di New York. Se la risoluzione del Congresso fosse passata nel 1887, quando il caso è scoppiato, la compagnia telefonica Bell sarebbe stata distrutta. Oggi l'impatto economico è nullo. Eppure per l'AT&T la risoluzione è come se non fosse mai esistita. Sul sito internet della società, Alexander Graham Bell figura ancora come l'unico inventore del telefono. E alla nostra richiesta di intervistare un responsabile ci è stato risposto: l'AT&T non può mettere a disposizione nessuno che possa essere intervistato per il vostro programma, né vi possiamo invitare per fare riprese o ricerche all'AT&T. La TNT, che ha ereditato il brevetto del telefono, è il gigante americano delle telecomunicazioni con un fatturato annuo di 127,4 miliardi di dollari. Un gigante che non intende riconoscere la risoluzione del Congresso americano e non è disposto a mettere in dubbio la verità su Bell. Non vuole, lo avete sentito, che i propri dipendenti rilascino delle interviste sull'argomento. Noi però vogliamo comunque provare a saperne di più. E allora, chi era Antonio Meucci? A Firenze il Teatro della Pergola è attivo dal 1656. Costruito dall'architetto Ferdinando Tacca, è uno splendido esempio di teatro all'italiana. Antonio Meucci vi lavora come aiuto macchinista dal 1833 e i dipendenti come Primo Pini ancora oggi amano raccontare la storia del loro illustre predecessore. A quell'epoca c'era 1200 persone che lavoravano alla Pergola, era davvero una città. Diventò un macchinista eccezionale, questo signor Meucci. Antonio Meucci è figlio di Amatis Meucci e di Maria Domenica Pepi. Primo di 9 fratelli, vive con la famiglia a Via dei Serragli, al numero 44, una stretta stradina del quartiere di San Frediano, dove è nato il 13 aprile del 1808. La ricostruzione dello storico Cosimo Ceccuti. Firenze sociale a quel periodo era un po' particolare, perché aveva due classi prevalenti. Una era la classe dei moderati e degli aristocratici, che erano tutti dei grandi proprietari terrieri. In questo clima si forma, cresce il nostro Antonio Meucci, figlio di un dipendente pubblico. Amatis è un uomo austero, di professione regio impiegato, è severo con i figli, per i quali sogna un impiego sicuro. Fa frequentare ad Antonio l'Accademia di Belle Arti, ma dopo 2 anni non riesce più a mantenerlo negli studi. Così Meucci trova un posto come dazziere alle porte della città, che però non lo soddisfa, e poi un colpo di fortuna. Viene assunto come assistente del primo meccanico al teatro La Pergola e lì conosce Esther, la donna che sposerà e gli sarà accanto tutta la vita. Sentiamo ancora Primo Pini che ci racconta come si comunica durante una rappresentazione teatrale. Il capo macchinista di giù, voce, alza l'ultimo fondale, tira su l'americana. Questo si fa quando non c'è nessuno, ma quando c'è il pubblico non si può fare. E allora cominciò a studiare in modo di poter comunicare con il sopra e con sotto. Allora fece due impianti, questi sono proprio del Meucci. Uno è con questo che fu il primo, che parlando di qui sottovoce comunicava con la graticcia, con tutto il ballatoio. E il sistema in pratica che fanno sulle navi tuttora. Nel 1935, siccome l'impresario Lanari del Teatro della Pergola stava per ritirarsi e venne a Firenze un altro grosso impresario, un catalano di nome Don Francisco Martí y Torrens. Questo Don Francisco assunse 81 persone del Teatro della Pergola, cantanti, comparse, meccanici, sarti, proprio la truppa al completo, la opera italiana. Don Francisco Martin Torrens vuole esportare l'opera italiana nelle Americhe. La compagnia raggiunge il porto franco di Livorno, dove la mattina del 7 ottobre 1835 il brigantino sardo Il Coccodrillo salpa alla volta di Cuba. A bordo Esther e Antonio, che dopo 70 giorni di navigazione sbarcheranno a L'Avana. Così Eusebio Leal, storico dell'Avana. In 1830 Cuba era parte della monarchia spagnola. Nel 1830 Cuba fa parte della monarchia spagnola. Insieme all'isola di Porto Rico è uno dei due ultimi possedimenti della corona nei Caraibi. Eusebio Leal è l'historiador della Ciudad de La Habana. Non solo uno storico, ma anche il responsabile dei fondi per il restauro di tutta la città vecchia. Il suo ufficio è proprio nel Palazzo dei Capitani Generali, dove dal 1834 governa su tutta l'isola Don Miguel Tacón y Rosique. Fu precisamente Tacón. È Tacón a decidere di costruire il Teatro della Habana, un teatro enorme, simbolo del suo contributo allo sviluppo di Cuba. Per costruire il teatro si serve dei migliori architetti e decoratori, affinché il teatro possa essere centro della vita culturale cubana. Antonio ed Esther arrivano a L'Avana il 17 dicembre 1835. Insomma, L'Avana allora era la New York del nuovo continente, del nuovo mondo. Antonio ed Esther abitano una piccola villetta nello spazio oggi occupato dal Campidoglio dell'Avana, proprio a fianco al teatro. Nel 1835 il teatro di Tacón è il più grande d'America. Meucci si immerge nello studio dell'elettrochimica e sperimenta le teorie di Alessandro Volta, Luigi Galvani e dell'austriaco Franz Mesmer. Nel 1844 inizia a galvanizzare, ossia a dorare o a argentare oggetti metallici. Il governatore dell'isola allora gli appalta il trattamento di tutte le uniformi e le armi dell'esercito cubano. Anche dei privati gli mandavano candelabri, medaglie. E qui Meucci guadagnò un mucchio di soldi, un gruzzolo notevolissimo di 26.000 pesos fuertes. I pesos fuertes, che era il peso pesante, equivaleva completamente al dollaro. Antonio Meucci diventa una personalità. Lo stesso teatro Tacón gli dedica una serata d'onore. La figura di Meucci appassiona anche uno storico della scienza dell'Avana, il professor José Alzúner. Quando termina il contratto, nel 1848, Meucci si trova ad avere circa 60 batterie, pile Bunsen, che connesse in serie possono arrivare a sprigionare 114 volt. Decide quindi di sperimentare qualcosa che va molto di moda, l'elettroterapia medica. Meucci collauda i suoi apparecchi sulla moglie, che si è ammalata di una grave forma di artrite. Presto la sua macchina contro i reumatismi diventa famosa e il governo gli chiede di somministrare ai più bisognosi la miracolosa terapia. Casa Meucci diventa famosa come casa della salute. Fu a L'Avana che Meucci fece il primo esperimento di trasmissione elettrica della parola. un giorno si presentò da lui un suo operaio della vecchia officina di galvanoplastica che aveva dei reumatismi alla testa, e allora lui pensò di applicare l'elettricità. Il paziente tiene in bocca un elettrodo. Meucci, nella stanza accanto, prova a connettere l'altro elettrodo alle batterie. All'improvviso sente un urlo tremendo. Ha quasi fulminato il paziente. Allora questo poveretto, quando ricevette la scarica di 120 volt, urlò, emise un urlo. Un urlo che si era trasmesso grazie al filo elettrico. A partire da questo momento, tutto indica che effettivamente Antonio Meucci fu il primo che realizzò questo sogno di trasmettere la parola umana per via elettrica. La voce umana per via elettrica. È il 1849. Antonio Meucci scopre per la prima volta che la voce umana può essere trasmessa attraverso il filo elettrico. È il primo passo verso una scoperta che rivoluzionerà il mondo. In quello stesso anno, nel 1849, quello che poi sarà il suo acerrimo rivale, Alexander Bell, è solo un bambino di 2 anni che vive a Edimburgo, in Scozia, in una famiglia benestante. Così lo racconta il nipote di Bell. Bell si interessa del suono per circa 10 anni. Suo padre e suo nonno erano entrambi insegnanti di dizione e aiutavano i bambini sordi a parlare. La madre stessa di Alexander è sorda. Per questo nella famiglia si è così attenti allo studio della meccanica del suono. E per questo Bell inizia a dare lezioni private di fonetica a bambini di famiglie ricche. Bell, insomma, è l'esatto opposto di Meucci. Bello, ricco, di buona famiglia, inserito nel mondo universitario e soprattutto molto, molto fortunato. Quando decide di emigrare, infatti, Bell può scegliere. E sceglie gli Stati Uniti ricchi, la terra delle nuove opportunità. Per Meucci, invece, la situazione a L'Avana si fa sempre più difficile. Mix 24, la storia. Eccoci di nuovo a Mix 24 per raccontare l'incredibile storia di Antonio Meucci, l'inventore del telefono. Meucci è a Cuba e lavora al teatro Tacón, ma a L'Avana cominciano i primi movimenti insurrezionali per la liberazione dall'occupazione spagnola. L'isola non è più sicura e allora i coniugi Meucci decidono di emigrare a New York. I Meucci arrivano a New York il 1 maggio 1850. All'epoca sono considerati benestanti perché hanno un patrimonio di 26.000 pesos. Si stabiliscono nell'isola di Staten Island di fronte a Manhattan, così Luis Leonin, che è stato il responsabile della casa museo Meucci. Sono stata a New York! Grandissima città! Staten Island in origine è stata costruita dagli olandesi. Staten Island è un nome olandese. C'erano molti tedeschi da queste parti, olandesi, inglesi. Gli italiani iniziano ad arrivare, non in gran numero, negli anni 20, 30, 40 dell'Ottocento. Meucci stesso è venuto qui alla fine degli anni 40. Punto di riferimento della colonia italiana, Meucci ha l'onore di ospitare Giuseppe Garibaldi, che il 30 giugno del 1850 sbarca a New York. Sentiamo ancora il biografo di Meucci, Basilio Catania. Divennero amici immediatamente. Meucci con i suoi soldi acquistò un cottage nell'isola di Staten Island e Garibaldi fu felice di venire ospitato in questo cottage. Meucci brevetta un tipo di candela detta stearica. Deriva dal carbon fossile e ha la proprietà di non colare. Con i pesos cubani può permettersi di aprire una fabbrica e dare lavoro a molti italiani. È sull'esempio di Garibaldi che Meucci decide di aderire alla massoneria. Meucci arrivò al grado di gran maestro della massoneria, che si chiamava 33, grado 33. Infatti lui in molte lettere si ferma Meucci e sotto i tre punti a triangolo, 33. Nel 1854 però, con i prezzi delle materie prime alle stelle e una concorrenza agguerrita, la fabbrica di candele fallisce. È la prima vera battuta d'arresto. Per un emigrante italiano e che non parla inglese, la vita non è facile. Scrive Antonio Meucci a suo fratello Giuseppe. Odiano agli stranieri, che sempre ti dicono dimmi Francia, perché tutti i forestieri li chiamano francesi. Meucci allora trasforma la sua fabbrica di candele in una fabbrica di birra e decide di darne la gestione a un americano, Jim Mason. Purtroppo Mason è un truffatore che lo porterà ben presto al tracollo finanziario. Uno penserebbe che si fosse demoralizzato. Invece queste disgrazie ebbero su Meucci l'effetto opposto. Meucci inventore supplisce alle carenze del Meucci imprenditore. Dal 1859 sino al 1864 brevetta una batteria galvanica, una lampada a cherosene, varie vernici con idrocarburi liquidi, un particolare pianoforte, un processo per ottenere la carta dal legno. Con la vendita dei brevetti o con i diritti di sfruttamento riesce a mantenere la sua Esther sempre più alle prese con un'artrite che la immobilizza. Contemporaneamente lavora a perfezionare il telegrafo parlante inventato a Cuba. Si buttò anima e corpo nello sviluppo del telefono. Ottenne un risultato praticamente perfetto tra il 1864 e il 1865. Meucci, come stai? Vuoi che ti preparo gli spaghetti? Sono queste le prime frasi che dalla camera da letto di Esther raggiungono il laboratorio di Antonio. Su questa linea Meucci sperimentò 26 diversi modelli di telefono. Che vita casa mia, para casa da mamma, a migliaia cristiane canta bene a trovare. In molti si recano ad ascoltare le voci nella casa di Meucci l'inventore. I bambini di Staten Island la soprannominano la casa del diavolo. Ma un'altra disgrazia segna la vita di Meucci. Meucci resta ferito nello scoppio di un traghetto. Per 3 mesi lotta tra la vita e la morte. Per sopravvivere, Esther vende tutti gli apparecchi telefonici e disegni sul telefono del marito per soli $6. Quando Meucci guarisce, con un'incredibile forza d'animo, realizza di nuovo gli apparecchi telefonici. Ma il brevetto costa troppo. La prima cosa che fece fu quella di depositare il brevetto sul telefono. Andò con un suo amico notaio da un avvocato brevettuale. E quello lì dice $250. Meucci, con una colletta, ne riesce a racimolare solo 20. L'unica possibilità è ottenere un caveat, una specie di brevetto provvisorio che va rinnovato ogni anno al prezzo di $10. Nell'estate 1872, Meucci consegna i disegni del suo teletrofono al vicepresidente dell'American District Telegraph di New York. È la stessa società per cui lavorano come consulenti Alexander Graham Bell e Elisha Gray. Nel 74 il caveat decadde. Nel febbraio del 1876, quasi contemporaneamente, Alexander Graham Bell e Elisha Gray depositarono brevetti sulla trasmissione elettrica della parola. Si dice, ma non ci sono prove, che sia Bell che Gray avessero carpito le idee di Antonio Meucci e che le avessero fatte proprie. Il 14 febbraio 1876, alle ore 14, Bell presenta all'ufficio brevetti il proprio apparecchio telefonico. Lo stesso giorno, ma 2 ore più tardi, Elisha Gray deposita il suo. Il brevetto numero 174465, relativo a un trasmettitore e ricevitore telefonico, è di Alexander Graham Bell. La grande corsa, insomma, è cominciata. Saranno più di 600 le cause intentate contro Bell per rivendicare la paternità del telefono, ma non c'è stato nulla da fare. Da questo momento in poi la storia del telefono verrà raccontata da Bell e dai suoi eredi. Sono le memorie del telefono, raccontate da Thomas Watson, collaboratore di Bell. Mi ricordo la mia sorpresa quando la prima volta Bell mi disse che si aspettava presto di essere capace di parlare col telegrafo. Furono fatti molti esperimenti sul telefono, ma non fu prima del 10 marzo 1876 che trasmise la sua prima completa frase. Bell era seduto di fronte al nuovo trasmettitore nella sua stanza, mentre io ero nel salone ascoltando i risultati col ricevitore del telefono. Bell stava per parlare nel nuovo strumento quando con un gesto improvviso del braccio rovesciò una batteria. Nell'eccitazione dell'incidente, Bell gridò: Mr. Watson, venga qui, ho bisogno di lei. E io ho sentito ogni singola parola attraverso il ricevitore. Queste che avete ascoltato erano registrazioni promozionali, realizzate dalla stessa Bell Company, la società che rileva i diritti del brevetto Bell. E per tutto il XX secolo, non solo in America, ma ovunque, tutti i libri di scuola, i manuali, le enciclopedie attribuiranno solo a Bell l'invenzione del telefono, senza fare mai alcuna menzione di Antonio Meucci. Ma sentiamo ancora il nipote di Bell. Bell è il primo a realizzare che è una corrente alternata e non una corrente continua a passare attraverso i fili. Questo è il punto chiave nella trasmissione di suoni articolati e comprensibili. Questo è quello che lui ha brevettato. E questo è ciò che manca nel cave a tali Meucci. Sostiene di aver inventato il telefono, ma il principio che spiega nelle sue carte non descrive un telefono che può funzionare. A partire dal 1876 si susseguono parecchi perfezionamenti e sviluppi da parte di Gray, Edison, Hughes. Con il telefono brevettato da Bell, già nel 1877 si può effettuare la prima trasmissione sulla distanza di circa 22 chilometri. Alla fine del 1880 negli Stati Uniti ci sono già 50.000 telefoni. Bell, come Meucci, non è un uomo d'affari. Lui è solamente un inventore e uno scienziato. Per l'invenzione del telefono, la Fondazione Alessandro Volta assegna a Bell $10.000. Si sposa e in viaggio di nozze viene in Europa, in Italia, a Pompei. Tornato dalla luna di miele, scopre che i suoi servizi non sono più richiesti dalla compagnia telefonica. Bell finisce in panchina per far largo agli uomini d'affari. Il gota del capitalismo mondiale scommette sulla sua invenzione. La stampa, soprattutto quella italo-americana, sin dal 1861 si impegna per amplificare la storia di Antonio Meucci. Sul brevetto del telefono, del resto, si gioca una partita enorme che ha un significato non solo economico, ma anche politico. Bell ormai è un cittadino americano, mentre Meucci è solo un povero emigrante. Bell è intimo del presidente degli Stati Uniti, Cleveland. La TNT è già un gigante dell'economia che fattura milioni di dollari e che può esercitare forti, fortissime pressioni sul Congresso. Di fronte a un avversario simile, Meucci sembra arrendersi. Nel 1883, per $150 al mese, Meucci cede il suo brevetto a una piccola società, la Globe Telephone Company. Ma la reazione della TNT non si fa attendere. 3 anni dopo inizia il processo contro Meucci e contro la Globe. Così il deputato Dominique Massaro e il biografo Catania. Il processo della Bell contro Meucci e la Globe Telephone Company qui a New York finisce nel 1887 con una sentenza contro Meucci. Che Wallace fosse un giudice di parte si deduce immediatamente leggendo la sentenza. Nel dispositivo di sentenza di Wallace si legge: le prove non dimostrano che lui avesse ottenuto nessun altro risultato che non quello di trasmettere la parola per via meccanica. Invece, secondo le carte che successivamente sono state rinvenute, Meucci descrive chiaramente un telefono a trasmissione elettrica. Ma la giustizia americana prende anche altre strade. Nello stesso momento in cui il processo contro Meucci viene iniziato dalla Bell Telephone Company, gli Stati Uniti d'America, il governo degli Stati Uniti, apre un'inchiesta che porta all'incriminazione per frode e falso contro Bell, non contro Meucci. Il Dipartimento dell'Interno constata che le priorità sull'invenzione di Meucci sono superiori a quelle di Bell. Antonio Meucci non riesce a seguire il dibattimento. Muore nel 1889. Il processo davanti alla Corte Suprema prosegue per anni. Ma nel frattempo spirano i brevetti Bell. Nel 1897 il ministro della Giustizia, constatata l'inutilità di proseguire un processo avente come scopo proprio la cancellazione di quei brevetti, annuncia che il caso è archiviato. Nel 1889 il capitale sociale del monopolio Bell sfiora $150 milioni. La vendita di tutto l'arredamento della casa di Meucci produrrà solo $191. Ma l'11 giugno del 2002, nella risoluzione 269, il Congresso degli Stati Uniti ha scritto che se Antonio Meucci avesse avuto quei $10 per rinnovare il brevetto provvisorio, Bell non avrebbe mai potuto rivendicare l'invenzione del telefono. In qualche modo, anche se tardivo, giustizia è stata fatta. Mix 24, la storia. Per parlare di Meucci non poteva che esserci Gianluca Nicoletti, re dei media alla radio. Ecco, Gianluca, dire telefono vuol dire cellulare. Uno studio dice che il 97% degli italiani ne ha uno. Insomma, non poteva che essere un italiano a inventare il telefono. Sì, in realtà ne abbiamo anche più di uno a testa, pare. Sì, è la concretizzazione di un oggetto che permette di dare esistenza a quello che è un nostro vizio nazionale. Noi ci piace tanto parlare, ci piace farsi i fatti degli altri, ci piace avere contatti con tante persone. Il telefono cellulare delocalizza i luoghi dell'incontro parlante. Non si va più al bar, non c'è più bisogno, abbiamo il telefono, tutti i nostri amici sono a portata di voce, quindi è logico che un italiano è chiaro avesse inventato una cosa che a noi ci fa molto piacere. Beh, insomma, però chi l'ha inventato, il povero Meucci, l'ha inventato, ma poi è morto povero. Eh sì, non basta avere grandi idee, bisogna avere anche la capacità di farle camminare. Se arriva qualcuno più furbo e ce le porta via, sono tanti a morire poveri e avere il genio comunque dalla loro parte. Il caso di Meucci è proprio clamoroso. Sì, è clamoroso, certo. Sì. Ecco, ma la differenza tra il telefono di Meucci e quello di oggi, a parte naturalmente la technicality? Beh, lui l'aveva inventato per degli scopi non propriamente sociali. Il telefono, come lo conoscevamo alle origini, era un oggetto che determinava la possibilità di una famiglia di mettersi in contatto con altre persone. Era un privilegio. Pronto, qui è Casa Bianchi, è Casa Rossi, non era la persona che rispondeva. E anche, poi se... anche fini sociali, no? Nelle sì, navi, sì. Insomma, salvare... Sì, lui l'ha inventato per diciamo, dare un aiuto di collegamento tra terraferma e navi. Ha pensato poi con un uso importante. Però è diventato uno strumento che è diventato un grande fluidificatore di socialità. E poi quando si è delocalizzato, non è più stato fisso, si è sciolto. Prima è iniziato col telefono a filo. Ti ricordi quando fu inventato il telefono con la spina? Certo, che uno se lo portava in camera. Certo. Sembrava una cosa... Già di, una conquista da futuro, di libertà da futuro. Pazzesca, sì. Era la prima personalizzazione. Il telefono c'era il ragazzo che sta in camera e parla con la fidanzata. E poi il telefono è diventato un appendice cioè, personale. Ridammi il telefono, rimetti il telefono dov'era. Sì, certo. Giravano questi apparecchi orrendi per casa. Poi c'erano le mamme cattive che mettevano il lucchetto, le nonne maligne. Quei lucchetti da telefono che si poteva telefonare. Non si poteva fare i numeri. Comunque, appunto... Appena ieri questo cellulare di cui hai parlato era uno status symbol. Oggi che cosa rappresenta? Lo è ancora o è diventato come le forchette, i coltelli per mangiare? No, non è più status symbol. È diventato molto di più. Sta diventando un'appendice inorganica del nostro corpo. È la protesi che ci serviva nell'epoca della comunicazione per relazionarsi con gli altri. È una protesi emotiva più che altro. Le nostre emozioni sono racchiuse nel nostro telefono. Tutta la nostra vita sociale è racchiusa nella rubrica digitale del nostro telefono. Noi siamo il nostro telefono ormai. E che quindi è terribile perché basta una goccia d'acqua, si ossida la SIM... E la vita finisce. Eh sì, come c'era quel racconto bellissimo di fantascienza che finisce il mondo, l'uomo che vuole leggere tanti libri, finalmente si trova con tutte le biblioteche del mondo, ma gli cadono gli occhiali, si rompono, ha tutti i libri che vuole e non può più leggere. Ah certo, il telefono come gli occhiali, non è male, ecco, ma il cellulare alla fine, insomma, croce delizia. Sì, non ne possiamo più fare a meno, è inutile che cerchiamo di fare i luddisti, che la gente va negli scompartimenti del treno dove non si può telefonare, poi telefonano tutti alla fine. E come facciamo? Non possiamo più fare a meno di respirare. Il telefono ci dà l'esistenza e ci dà la certezza che il mondo ancora ci pensa. Quando il telefono non suona, per noi improvvisamente è come se scomparisse il mondo. Perché non mi cercano? Vuol dire che non esisto più. Non valgo niente. No, non valgo niente, sì, è questo. Allora viva Meucci che ci ha dato la vita e l'identità. Sì, ci ha dato uno strumento per vivere la nostra contemporaneità, altrimenti vivremmo in maniera diversa, forse meno stressati, ma meno consapevoli della nostra contemporaneità. Ma più soli o più accompagnati col telefono? Ma soli siamo sempre, nasciamo soli e schiattiamo soli, su questo sono convinto. Il telefono ci dà l'illusione, è una sorta di morfina che ci fa sentire meno il dolore della separazione dalla madre di quando siamo nati. Abbiamo l'illusione, abbiamo tanti amici, abbiamo tanti nemici, quando sono al telefono speriamo sempre sia qualcosa che corrisponda a una buona notizia, qualcosa di piacevole, qualcuno che noi vogliamo che ci pensi, o temiamo altresì che sia qualcuno che ci dia delle rogne. Quante volte sono al telefono e ci viene il batticuore, no, adesso arriva questo. Purtroppo.